Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Vi ricordo che andiamo in replica alle 20:45, quindi buona serata se ci ascoltate a quest'ora. Allora, la mail è molto semplice, unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo il mio blog, Guardie o Ladri, lo trovate con un motore di ricerca. Comunque è sull'home page del Sole 24 Ore, quindi www.ilsole24ore.com. Perché ve lo segnalo con un certo calore oggi? Perché oggi troverete un approfondimento sul tema di cui tratteremo. Il tema è il terremoto in Abruzzo. Noi abbiamo promesso ai nostri radioascoltatori abruzzesi, aquilani, ma a tutti i radioascoltatori italiani, che non avremmo perso di vista quello che sta accadendo in quella terra. Ebbene, le promesse le manteniamo e oggi abbiamo il piacere di avere nuovamente ospite con noi Filiberto Cicchetti, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori per la provincia dell'Aquila. Buongiorno Cicchetti. Buongiorno. Allora, come sta? Male, grazie. Ecco, questo francamente non mi fa piacere. Sono sicuro che lei di salute sarà bene, quindi se sta male è per un altro motivo. Sono ma male grazie per altri motivi. Ecco, ce li spieghi allora, visto che tanto ci ascoltano soltanto alcune centinaia di migliaia di persone. Male grazie, mi allaccio al libro della Fallaci quando gli hanno chiesto dove sta Oriana. Male grazie, perché l'Abruzzo, la nostra città dell'Aquila, noi la vediamo ancora tutta devastata, così, quindi ci fa stare male dentro, oltre che male economicamente, ma ci fa stare male anche dentro l'anima. Certo, ecco, francamente noi giornalisti, intendo dire, sempre seguito con particolare attenzione il momento, diciamo così, del terremoto, la sciagura, i giorni successivi, poi chissà perché inevitabilmente c'è uno sfibramento, uno sfilacciamento delle informazioni, si va a spizzichi e bocconi, si vedono presidenti del Consiglio e politici di vario genere, quindi al centro, a destra, a sinistra, a sfilare, cappelli e caschetti da cantiere, quant'altro, opere che sembrano partite in realtà non lo sono. Ci aiuta a capire a questo punto qual è la situazione, diciamo, della ricostruzione proprio in vista del G8, diciamo così, che coinvolgerà l'Aquila? Io ho letto per esempio una cosa bruttissima sul blog di Beppe Severgnini, che diceva che addirittura qualcuno pensa che ad Onna le macerie siano state lasciate proprio per far vedere al mondo intero, in occasione del G8, che il terremoto c'è ancora. È vero o non è vero? È una battuta cattiva? Qual è la situazione, Cicchetti? Di Onna credo che sia solo una battuta, in quanto le macerie sono tantissime su quel territorio, piano piano si stanno rimuovendo, c'è anche da vedere quando vanno portati i rifiuti, ci sono delle norme sui rifiuti che noi stiamo esaminando anche a livello di ANCE nazionale. Per quanto riguarda la prima domanda, quella della ricostruzione, è partita la fase per mettere dentro le case questo famoso progetto case della protezione civile, questo è partito sprombattuto, diciamo, le stanno costruendo. Poi sono stati tutti i lavori per adeguare la caserma della finanza al G8, anche quelli sono stati fatti, diciamo che quel lato della città si presenta in una maniera abbastanza, sembra tutto nuovo. Ecco, prima di arrivare con lei a capire che cosa manca ancora, vorrei fare un piccolo passo indietro. Mi spiega meglio, credo che sia importante, la vicenda dello smaltimento dei rifiuti, credo, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Qual è il problema in questo momento? Ma i rifiuti, c'è una norma sui rifiuti che vanno selezionati e sono pieni di, c'è anche l'amianto su questi rifiuti, sono tantissime cose, quindi si sta cercando di capire quali sono le discariche adatte, i siti dove possono essere smaltiti questi rifiuti, vanno divise le varie componenti dei rifiuti, c'è una norma nazionale che non abbiamo questa deroga per poter portare tutto in questi siti, quindi è un processo molto complesso, molto lungo. Ho capito, quindi anche per questo probabilmente che si vedono. Sono rimasti ancora dei siti accatastati, messi nelle aree così, ma questi devono essere smaltiti per forza. Ecco, veniamo adesso appunto ad un altro discorso. Cerchiamo di capire che cosa manca a suo giudizio, che cosa non è stato ancora fatto da parte del governo, delle istituzioni, di tutti noi per accelerare un processo che potrebbe rischiare di diventare lungo. Beh, adesso diciamo che la prima fase da fare è quella di tutta la riparazione dei condomini fuori della zona rossa, che si possono riparare con le ordinanze A, B e C, e quindi ancora ci sono dei dubbi sulla procedura, ancora non si capisce bene le forme di pagamento, ci sono ancora dei chiarimenti da fare. Quindi, diciamo, questa è la fase più importante, perché questo consentirebbe di far rientrare tantissime famiglie dentro le case. Ho capito. Il 60% della popolazione rientrerebbe nelle case appena si possono, in 2 o 3 mesi possono riparare questi edifici, diciamo. Ho capito. Allora, veniamo ad un altro tema abbastanza delicato e caldo, che abbiamo già affrontato con lei, e non solo con lei, alcune settimane fa, vale a dire il rischio che ci possano essere delle infiltrazioni di stampo mafioso. I soldi sono e saranno tantissimi, già alcuni bandi sono stati espletati e ci sono già alcune imprese capofila per la ricostruzione. Però il 29 giugno, lunedì 29 giugno, un giornalista che io stimo molto come Attilio Bolzoni, come lei sa, Cicchetti, ha fatto un lunghissimo articolo sulle amicizie pericolose all'ombra della prima New Town di un imprenditore che comunque, avendo avviato già questi scavi, non era la prima volta che aveva delle vicinanze, delle amicizie pericolose all'interno di Cosa Nostra, soprattutto nei confronti dei prestanomi di Vito Ciancimino. Allora, come commenta questo tipo di notizia, e le chiedo se ci sono a suo avviso dei rischi maggiori o minori rispetto all'ultima chiacchierata che abbiamo fatto insieme sulla possibilità che le mafie si infiltrino nella ricostruzione dell'Aquila? Ma il rischio può anche esserci. Insomma, noi diciamo che la nostra economia era un'economia molto molto sana, di un territorio molto sano, quindi in questo corpo sano è un po' difficile fare infiltrare delle persone. Può anche essere di subappaltatori, perché tutta la normativa nostra esclude di fatto questo. Poi so che c'è un proprio dei magistrati che stanno indagando per evitare che ci siano queste infiltrazioni. Sulla domanda specifica, a noi non ci risulta. Tra l'altro questo imprenditore è un nostro associato dell'ANCI, ha sempre operato bene. Io naturalmente nessuno vuole impedire che si facciano degli accertamenti, ma io credo che sia più non credo che sia vero, insomma, ci sia questo collegamento, però naturalmente non è che lo possiamo escludere a priori. Si tratta di una persona che ha operato per tanti anni, opera nel nostro territorio, quindi non saprei dare un commento. Certo, comunque ecco, mi pare di poter capire una cosa, mi corregga se sbaglio: voi vigili rimanete, mi auguro, sempre e comunque, insomma, no? Noi abbiamo le antenne alzate, l'ANCI non ha nulla contro le imprese di fuori, anzi sono benvenuti, molti nostri imprenditori stanno già lavorando in varie parti d'Italia, anche all'estero, quindi non è che possiamo evitare, certo, di farne gli altri imprenditori. Tra l'altro si stanno formando anche dei consorti e associazioni con imprenditori importanti nazionali e con i nostri imprenditori locali, proprio perché la ricostruzione sarà molto grande, molto complessa. Assolutamente. Lei dice un'altra cosa, mi consente, lei dice: prego. Che sono tanti soldi, per il momento i soldi ce ne sono molto pochi. Sì, certo. Speriamo che poi questi pochi diventino di più, perché diciamo tutta la nostra economia è distrutta, era un'economia già in sofferenza prima del sisma, perché nelle zone interne col sisma si è tutto acuito questa storia. Noi diamo lavoro a circa 7.000 operai, che ancora molti sono in cassa integrazione, ma stiamo sul passi di lavori. Certo, non ha fatto benissimo a specificare che effettivamente finora di soldi se ne sono visti pochi, in realtà sarebbero moltissimi per la ricostruzione, sono svariati miliardi, però ha fatto bene a specificarlo. Senta, Cicchetti, visto che lei è una persona gradevole con la quale colloquiare, mi commenta questa notizia gentilmente, che è passata sotto silenzio ovviamente, perché noi giornalisti siamo molto bravi a seguire le cronache, insomma a seguire ciò che è facile, no? Ma poi quello che invece non è facile non ci piace, è una professione ormai seduta, una professione che sta morendo, la nostra. Allora, il Mattino di Napoli, quindi un giornale locale, ma la stampa nazionale ha bellamente ignorato questa notizia, io invece l'approfondisco appunto sul blog, lo ricordo, Guardi o Ladri, proprio oggi, titola così: processo terremoto, tutti assolti dopo 20 anni. Si ricorda, Cicchetti, la ricostruzione dell'Irpinia, no? Decine e decine, centinaia e migliaia di miliardi che girarono. Bene, un solo colpevole, che era l'ex presidente della regione. Tutti gli altri sono stati assolti. Non è una bella notizia? Lei che cosa ne pensa? emblematica questa cosa, insomma, diciamo, di solito come facciamo a commentare su fatti che non conosciamo specificamente, un po' 20 anni fa, noi diciamo che per esempio sul nostro terremoto grandi, riteniamo che colpe non ci sono state, poi se c'è qualche caso da accertare la magistratura lo deve accertare. Io di Irpinia non mi ricordo tutto di questo processo effettivamente, ma insomma mi sembra, non saprei commentarlo. Certo. Non saprei no, dire no, no, no, ma infatti ci pensano a commentarlo i colleghi del Mattino di Napoli, che fanno anche della facile, ma facile in questo senso giustificata, ironia sul fatto che dopo quella catastrofe che lasciò il segno, lasciando nel dramma migliaia di famiglie, insomma, colpevoli non ce ne sono nell'opera di ricostruzione, nell'opera di ricostruzione. Io ringrazio Cicchetti, presidente dell'ANCE L'Aquila. Ovviamente dico ai nostri radioascoltatori, torneremo, lo abbiamo promesso, come vedete manteniamo le promesse, ancora all'Aquila, anche sentendo altre voci. Per il momento dico grazie regia a Fabio Cantadori, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.